sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lui alzò le mani per arrendersi, ma i due soldati inglesi erano intenzionati ad ucciderlo. In quel momento si avvicinò un caporale inglese e gridò a loro di non sparare, dicendo: non vedete? Si è arreso. Sono Giuseppe, vivo a Valderatore in provincia di Torino, sono sposato, ho un figlio di 13 anni e il mio hobby preferito, dove passo quasi tutto il mio tempo libero, è l'elettronica e in generale riparare, realizzare piccoli progetti. C'è una categoria di racconti che arrivano, ormai lo sapete, dedicati alle storie dei propri genitori, e alcuni si dividono tra storie di vita dei propri genitori, quindi pezzi di vita delle persone che ci sono stati vicine e che quindi in qualche modo ci rappresentano, e altre invece sono storie molto più crude che hanno a che fare con un'epoca che fortunatamente nel nostro paese o dalle nostre parti non stiamo più vivendo da diversi anni, che è la guerra, che è in particolar modo la Seconda Guerra Mondiale. La storia di oggi parla esattamente di quella cosa lì. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, in diretta da Via Montrosa 91 a Milano. Oggi raccontiamo un'altra storia, il programma si chiama Voi siete qui. 349-238-6666, se avete voglia di condividere con noi qualche piccola storia che vi arriva da quel periodo, di un nonno, di un padre, proprio un piccolo episodio, la volta in cui fu fatto prigioniero e accadde quella cosa, di quel tizio che conobbe in quel frangente, o tipo la storia di mio nonno che mi raccontava ogni volta di quando trovarono un camion tedesco in ritirata pieno di mostarda e se la finirono tutta, era carico di mostarda, e loro erano tipo una decina di soldati italiani in Libia, nel deserto libico, e svuotarono, quindi potete immaginare cosa successe poco più tardi a loro e ai loro intestini. 349-238-6666, oppure abbiamo un profilo Facebook che è sempre quello lì, che è Voi siete qui Radio 24, e un profilo Twitter sul quale smanetta come pochi Miriam Lucchetti, che Voi siete qui R24. Vi ricordo che noi non ci fermiamo mai dall'andare in giro a raccontare storie anche dal vivo, e quindi giovedì prossimo, giovedì 11 dicembre, che è il tipico giorno in cui si va in giro a fare regali di Natale, proprio l'11 dicembre. Quando è Santa... C'è una santa prima di Natale in cui si fanno i regali? Santa Lucia, mi suggerisco. È l'11 di dicembre Santa Lucia? No, l'ho già detta, è un altro giorno. È un altro... 349-238-6666. Quando cade Santa Lucia? Il 16, mi dice Miriam. Neanche il 13, perfetto. Miriam ancora non sa che di là dal vetro, se parla, io non la sento, a meno che Pietro abbia aperto l'interfono. Perfetto, è pochi giorni prima di Santa Lucia, quindi che sarà a questo punto sabato, giovedì 11. Noi siamo nel negozio della Pirelli, dico sempre flagship store, ma poi è un grande e bel negozio ovviamente, in pieno centro a Milano, in piazza San Babila, per l'esattezza in corso Venezia numero 1. Siamo in onda in diretta alle 16, se avete voglia di venire passate, è tutto gratuito, iscrivetevi tramite il sito di Radio 24, la pagina di Voi siete qui, ma soprattutto mandate storie che abbiano a che fare con i regali di Natale. Vi ricordo 349-238-6666 per partecipare alla puntata di oggi. Adesso mettetevi comodi, di qualsiasi cosa stiate facendo, perché questa è la storia di Giuseppe e di suo papà Francesco. Francesco, mio padre, visse dal 27 aprile 1916 al 14 dicembre 2009. Secondo di 5 figli, nato da famiglia povera, a circa 10 anni, a metà della terza elementare, dovette abbandonare la scuola per lavorare e poter guadagnare qualcosa per aiutare la famiglia. A 11 anni suo padre lo portò in un cantiere dove realizzavano strade di collegamenti per diversi paesini. Purtroppo a quei tempi non avevano molte attrezzature da lavoro motorizzate e dunque si doveva fare tutto con la forza delle braccia. E lui, anche se era solo un bambino, a volte era costretto a fare degli sforzi enormi, e così gli venne l'ernia. Se la portò avanti fino agli anni del militare, perché non c'era la possibilità di farsi operare. Alla visita di leva lo riformarono, ma lui si oppose e volle per forza arruolarsi, perché così sarebbe stato operato all'ospedale militare. E così fu. Mio padre era una persona molto molto seria e molto coerente con quello che diceva, e diciamo anche molto rigido con i figli. Intanto, negli anni che seguirono, scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e lo chiamarono alle armi. Imbarcato a Napoli il 18 febbraio del 41, sbarcò a Tripoli il 28 febbraio. Lui era capo squadra degli addetti ai cannoni. Dopo tante battaglie, il 21 novembre del 41, ci fu un grande attacco da parte dei nemici inglesi, che avanzavano e mitragliavano. Così loro, vedendosi braccati, cercarono un posto per salvarsi. Mio padre trovò una grossa pietra e ci si nascose dietro. I nemici, dopo aver sparato diverse raffiche di proiettili contro quella pietra, si avvicinarono e, appena lo videro, si misero a puntarlo con fucili a baionetta. Lui alzò le mani per arrendersi, ma loro erano intenzionati ad ucciderlo. In quel momento si avvicinò un caporale inglese e gridò di non sparare, dicendo: «Non vedete? Si è arreso». Fu portato in prigione in Libia. Ci trascorse 5 anni. Mi raccontava che per mangiare i prigionieri a volte prendevano le bucce delle patate che buttavano gli inglesi e le bollivano per avere un brodino caldo con un po' di gusto. Mi disse anche che un giorno, giocando con un vecchio pallone, cadde e si ruppe un polso. Allora in infermeria lo sedarono per il forte dolore. Prima di addormentarsi, vide accanto a lui quel caporale che gli salvò la vita, e al risveglio lo vide ancora accanto a lui. Ci parlò spesso di quel nemico buono. Mi raccontava che imparò tante cose lì in prigionia. Fece teatro assieme dei soldati napoletani, si costruì un mandolino e imparò a suonare. E con quel poco di scuola elementare che aveva frequentato, scriveva lettere per i suoi familiari e anche per tutti gli altri. Mio padre ha fatto sempre il contadino, diciamo, con un pezzo di terra che aveva di sua proprietà in Calabria. Prima della guerra era un ragazzo e faceva tutto quello che aveva bisogno a casa, di quello che aveva bisogno suo padre, ma non era un contadino ancora, perché non aveva un terreno suo di proprietà. Nel maggio del 46 fu rimpatriato e sbarcato a Napoli. Da lì, un po' a piedi, un po' con mezzi di fortuna, arrivò al paese. Si presentò al distretto militare di Catanzaro, dove gli diedero il congedo illimitato. E quel foglio, a casa, lo custodisco ancora gelosamente. On anyone to stand there behind me and keep the dogs from dragging me off with them. Foto che ci ha mandato sta facendo, credo, il tecnico del suono, Giuseppe. È davanti a una serie di mixer, a una giacca, un giacchino col cappuccio, un cappello, e ha, non capisco se è un tatuaggio, spero di no, sinceramente, sulla guancia sinistra. Pronto, Giuseppe? Ah, ciao Matteo. Come stai? Sto bene. Che cos'hai sulla faccia? Cos'hai sulla faccia in quella foto? Lì era la festa di Halloween, ma avevano fatto così con un pennarello. Ah, ok, un pennarello quindi. Sì. E cosa stai facendo esattamente? Cosa smanetti lì con un mix? No, diciamo che il mio hobby è l'elettronica, come dicevo. Come dicevi, certo. Io mi diverto a far rivivere cose che per altre sono morte da buttare via, cioè, sostanzialmente riparare, aggiusti, ok, aggiusti aggeggi elettronici. Fammi un esempio della cosa che stai riparando adesso, Giuseppe. Diciamo che la cosa più forte che ho fatto è stata un po' di anni fa. Ho costruito una radio libera dalla A alla Z, proprio tutta costruita. Cioè, una radio inteso come una stazione radiofonica? Sì, certo, ho costruito il trasmettitore, il mixer, tutto da zero. Ed è legale, funzionava, Giuseppe? Funzionava alla grande. Poi. Ma scusa, e trasmettevi anche? Sì, trasmettevo, ma a livello di paese, cioè entrando in qualche frequenza, tipo uno stava ascoltando Radio 24 e a un certo punto. Ma ti parlo degli anni 80, che c'erano ancora abbastanza frequenze. Parliamo proprio del tempo delle radio libere, quindi sì, questa è stata la cosa più E andavi in onda, Giuseppe, andavi in onda? Certo, certo, erano impazziti tutti, la gente volevano, sono tutti venuti a vedere cosa, come facevo a farmi sentire a casa loro, mi sentivano, non riuscivano a capire. Ascolta, che paese era il tuo paese d'origine? Sempre giù in Calabria, sì. Come si chiama il paese? Umbriatico. Umbriatico, ma Umbriatico è sul mare? No, è circa meno di 30 km. Vale, perfetto, vabbè, dai, non è così lontano. Insomma, temevo fosse tipo sulle montagne della Sila, e quindi non c'avevo proprio beccato per niente. Ciro Marina, è proprio lì. Benissimo. Giuseppe, scusami, avevi un nome di battaglia? Ti chiamavi tipo DJ Giuseppe o DJ Beppe o DJ Giusi? Sì, lì alla radio mi chiamavano Pino One perché c'erano altri Pini. Perché c'erano Pino 2 e Pino 3, quindi. Certo. Giuseppe, perché io è un nome molto comune, Giuseppe, allora eravamo in tre Giuseppe. Che perché Pino ovviamente è stato Giuseppe, Giuseppino, Pino, sì, giusto? Sì. Giuseppe, invece veniamo alla storia del tuo babbo. Quante volte te l'ha raccontata questa storia? La storia, mio padre, al contrario di tanti che sto sentendo che erano negati, che erano resti, certo, certo. Figli. Invece lui la raccontava spesso, proprio tutte le cose che ha vissuto in prigionia, tutto ci raccontava spesso, sì. E tuo padre poi cosa ha fatto nella vita, dicevi? Era muratore, era carpentiere? No, un contadino. Ah, giusto, era contadino, sì. In Calabria? Sì, coltivava la terra, la sua terra. E tu invece cosa hai fatto? Sei venuto su al nord? Io a 18 anni sono venuto su al nord, ho studiato un po' di elettronica e ho messo a lavorare in una ditta. Ma però l'elettronica rimane il tuo hobby, mi sembra di capire. Cosa fai invece? Il principale è l'elettronica, però come lavoro ho fatto diversi lavori. Tipo adesso cosa stai facendo, Giuseppe? Adesso lavoro sempre in una ditta che facciamo anche elettronica. Comunque. Ah, ok, vabbè, quindi riesci a coniugare hobby e lavoro. Hai una famiglia, hai dei figli, Giuseppe? Sì, ho una moglie e un bambino di 13 anni. Ah, ok. E cosa gli fai studiare? Elettronica, evidente. Mi sembra l'hashtag di oggi è elettronica, mi pare di capire. Sì, lui insomma dice che vuol fare robotica. Ah, vabbè, che è l'evoluzione, quindi è in linea. Tua moglie cosa dice di tutta questa tua passione per elettronica? Le costruisci qualcosa? Le aggiusti le cose? Ma io no, diciamo che non faccio morire niente, sempre rivive tutto quello che fa per morire. Grande Giuseppe, ti ringrazio molto, ti lascio. Dove sei adesso? Sei a casa, sei al lavoro? Sì, sono in macchina. Sei in macchina, perfetto, ti faccio tornare a guidare. Grazie ancora per la storia e la chiacchierata, in bocca al lupo. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao. Alcune storie arrivano con il titolo e invece ad altre ce le diamo noi. Quella di Giuseppe è arrivata con un titolo che è un ossimoro enorme, che parla della guerra e degli esseri umani. Il nemico buono l'ha chiamata lui. E forse perché suo papà, parlando di quel caporale inglese che gli ha salvato la vita, lo definiva così: un nemico buono. Anche se secondo logica non esiste un nemico buono. Il nemico è cattivo e sbaglia sempre, visto che lotta per qualcosa che è meno giusto di quello per cui combattiamo noi. Il nemico buono non può esistere, altrimenti sarebbe un amico, e se quella parola non esiste, se la parola nemico non esiste, non ha più senso combattere contro qualcuno, o cercare di ucciderlo, o di farlo prigioniero, perché altrimenti uno, per quale motivo, dovrebbe fare prigioniero un amico? La prima volta che ho riflettuto su questa cosa è stato grazie ad un insegnante del liceo. Era un professore che non era mio professore. Era un supplente che dovette sorbirsi la nostra classe per 2 ore per via dell'assenza della prof di matematica. Ho visto che lui insegnava italiano e in quell'anno era appena scoppiata la guerra nel Golfo, la prima dico, quella di Bush padre. Lui ci disse: bene ragazzi, parliamo di questo. Ci chiese qualche parere a proposito, però uscirono solo dei monosillabi dalle nostre menti sopraffine. E allora lui tirò fuori dalla cartella un libro che si intitolava Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. E ci lesse un pezzo che parlava di soldati nemici seduti a mangiare alla stessa tavola. Corro e busso alla porta di un'isba. Entro. Vi sono dei soldati russi là. Dei prigionieri? No, sono armati, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile, li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera enorme e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. «Mnie kochezia jest», dico. vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e di miglio, con un mestolo, lo fa dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto ed ogni mia boccata. Spasiba, dico quando ho finito. La donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. Pasausta, mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell'ingresso ci sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me, come per aprirmi la porta. E io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi dà il favo e io esco. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano a pensarvi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta deve essere vistata tra gli uomini. Dopo la prima sorpresa tutti i miei gesti furono naturali. Non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano con me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra me e i soldati russi e le donne e i bambini un'armonia che non era un armistizio. Era qualcosa di più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a sapere restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi, ci ricorderemo tutti quanti eravamo là, come ci siamo comportati. I bambini, specialmente. Se questo è successo una volta, potrà tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume, un modo di vivere. E alla fine, dalla storia di Giuseppe ho capito che, primo, i racconti dei padri vanno raccontati ai figli perché ci ricordano da dove veniamo. Secondo, le uniformi fortunatamente non nascondono tutto quello che c'è da nascondere. Terzo, finire in infermeria durante la prigionia giocando a pallone è piuttosto bizzarro. Quarto, il brodo con le bucce di patate potrebbe essere la portata principale di un ristorante macrobiotico. E quinto, anche se nelle partite di calcio, quelle importanti, dico, li battiamo sempre, in fondo gli inglesi ci vogliono un po' di bene. Avessero chiesto, ma metterete mai Elton John a Voi Siete Qui? Io avrei detto, ma figuriamo ragazzi, ma guarda, ti do il numero di Bonini e parli con lui. E quando gliel'ho fatto notare mi ha detto, solo quello prima del 74, a cui risale ovviamente anche Rocketman. Vi ricordo che qualsiasi canzone, qualsiasi brano che mandiamo in onda, potete trovarlo. Io non li presento mai, non ho fatto la scuola del DJ, quindi non mi dimentico sempre di farlo, ma potete trovare sul nostro sito, alla pagina di Voi Siete Qui, i due brani che mandiamo in onda. E siamo talmente veloci e svelti che ci cliccate sopra e si apre un link da YouTube e quindi potete ascoltarvelo anche incredibilmente. Rock and Band di Elton John. Santa Lucia il 13 dicembre, la notte più lunga che ci sia. Mi è arrivato un messaggio addirittura di un amico, avevo il telefono per errore acceso, che mi diceva il 13 dicembre Santa Lucia e si fanno i regali più che a Natale, mi ha scritto una roba del genere. A Brescia si fanno i regali più che a Natale. A proposito di storia di guerra, Alessandra, mio nonno era un partigiano monarchico, quando finì a San Vittore è una vedette dell'epoca che si chiamava Mistinguette, che era amante dello zio, andò a trovarlo, divenne l'eroe del carcere. Alessandra, grazie a quelli che hanno fatto la puntata oggi, che sono Pietro Lacorte, Tiziano Bonini e ovviamente Miriam Lucchetti. Grazie soprattutto a Giuseppe, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Vincenzo e vivo in provincia di Brescia. La storia di domani è la mia e parla di Napoli, un giorno di Ferragosto e un vecchio motorino. Questa è la mia storia e io sono qui.